Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Quello dell'itticoltura lungo le vallate venete è un settore forse poco noto ma di lunga tradizione. Ma come vengono allevate queste trote? Cosa mangiano? E da dove vengono le trote che troviamo sui banchi dei nostri supermercati? Sono veramente fresche? Lo chiediamo a Enrico Benetti dell'allevamento Trote Benetti di Altissimo, un comune nell'alta valle del Chiampo, storicamente una delle più vocate per questo tipo di attività, un allevamento che alleva trote sia nella varietà locale della trota fario che in quella iridea. Intanto benvenuto a Enrico. Grazie mille per l'invito. Noi abbiamo appunto un allevamento di trote a conduzione familiare, appunto l'allevamento Benetti, e insieme a un altro allevamento facciamo nascere e crescere queste trote, le trote iridea principalmente e anche la fario. Grazie alle caratteristiche dell'acqua, appunto dell'alta valle del Chiampo, che è acqua veramente pura, e studi recenti da parte dell'Università di Padova ha constatato che ci sono i microrganismi che nelle altre acque sono scomparse da molto tempo, grazie a tutto ciò riusciamo ad allevare e a portare al peso di 2-3 kg le trote iridea. Le facciamo nascere in questo periodo, poi le svezziamo e quando tagli da 40-50 grammi, noi le alleviamo mediante dei mangimi apposta di farina di pesce e le portiamo appunto alla taglia che poi noi forniamo le pesche sportive e la vendita al minuto a tutti i nostri clienti. Quindi sono trote che comunque nascono nella vallata e crescono nella vallata fino a quando poi sono vendute e messe sul mercato. Esattamente, il ciclo di vita sostanzialmente è di 2-3 anni, per cui in questo arco di tempo riusciamo a portare una taglia di circa 2,5-3 kg sostanzialmente. Sì, dalla nascita al momento in cui sono commercializzate passano circa 2 anni. Sì, questo è il tipo di... Poi ci sono tanti fattori che possono intervenire, ma comunque un ciclo di vita, siamo sui 2 anni, 2 anni e mezzo, ecco, esatto. Che cosa caratterizza un allevamento di trote d'acqua dolce, in particolar modo di trote montane come il vostro, rispetto ad altri allevamenti? Allora, sostanzialmente è la caratteristica dell'acqua. Le vasche, appunto noi captiamo l'acqua dal torrente e ci sono una serie di vasche in linea di una struttura di cemento e l'acqua appunto essendo di torrente ha questo sbalzo di temperatura che d'estate va un po' su verso i 15-18 gradi mentre d'inverno si abbassa notevolmente e questo conferisce una caratteristica alle trote che appunto alleviamo perché c'è una selezione naturale e le trote che riescono ad arrivare alla taglia che ci viene richiesta hanno veramente una qualità superiore. Ecco, le trote che troviamo nei nostri supermercati o comunque nei negozi di pescivendoli sono, credo, esclusivamente trote di allevamento. I consumatori spesso si chiedono ma come sono allevate e che cosa mangiano queste trote? Allora, le trote che vengono allevate appunto nei nostri allevamenti intensivi hanno una dieta a base di mangimi di farina di pesce, mentre per le trote salmonate hanno una dieta carotenoidi, praticamente una molecola che conferisce quella colorazione rosata alla trota con la quale è molto simile al salmone, insomma, che è molto apprezzata dal cliente. Ecco, la trota fario invece è quella tipica della vostra zona. Esatto, sì, la trota fario è un prodotto la quale è molto più difficile da allevare, però alla richiesta dei pescatori si divertono molto di più nel pescarla perché appunto è molto più selvatica rispetto alla trota iridea. Ci fermiamo per qualche minuto, torniamo con il quadrifoglio tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. happened yet. Escaping from this town. And if you want to, all you need to say to me is yes. 'Cause I remember, and it hasn't even happened yet. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di trote, in particolar modo delle trote della Valle di Chiampo, con Enrico Benetti dell'allevamento trote, appunto Benetti di Altissimo. Ci chiedevamo un po' questo: quanto tempo passa da quando una trota lascia l'allevamento a quando arriva sui banchi delle pescherie? Allora, il tempo è immediato praticamente, perché viene direttamente pescata, sfilettata e consegnata al supermercato. Poi la nostra gamma di clienti, diciamo, sono le pesche sportive, anche le quali, in base all'ordine che ci fanno, carichiamo un nostro mezzo che è praticamente completo per la fornitura e le consegniamo direttamente in giornata. Quindi rispetto ai pesce di mare, quindi anche quello è quasi sempre pesce di allevamento di mare, perché motivo uno dovrebbe poter scegliere invece che, non so, il branzino di mare allevato nel mare, la trota allevata nei nostri torrenti? Beh, le motivazioni potrebbero essere molte. Chiaramente nella nostra zona è una zona esente da inquinamenti nell'alta valle del Chiampo, e appunto, come dicevo prima, l'acqua, avendo delle caratteristiche rare, rarissime e di alta qualità, danno proprio alla trota una qualità sicuramente superiore al resto. Di questo non posso essere certo, insomma. Ecco, ci sono delle fasi durante l'anno dell'allevamento, per esempio, non so, la nascita, gli avannotti e poi il... Ecco. Diciamo che... In questo periodo, per esempio, che cosa avviene negli allevamenti? Allora, in questo periodo, adesso noi stiamo immettendo delle piccole trotine che, diciamo, vengono chiamate anche avannotti, e dalle quali in questo periodo la temperatura, essendo più alta dell'acqua, siamo intorno ai 12-13 gradi, hanno la possibilità di crescere e svilupparsi in maniera più veloce e meno sofferente, perché appunto, come dicevo prima, la temperatura dell'acqua d'inverno scende notevolmente, essendo un torrente di fiume d'alta montagna. E questo è il periodo migliore per la crescita, insomma, ecco. Qual è un prezzo corretto di vendita poi al pubblico di questi prodotti? Guardi, il prezzo corretto, allora, al dettaglio so che siamo intorno ai 6,50 euro al chilogrammo sempre, mentre all'ingrosso i prezzi si aggirano sui 3,50 euro, 3,70 euro. Poi chiaramente il prezzo dal punto di vista della salmonata chiaramente ha un costo maggiore, perché si parla intorno ai 10-15 centesimi in più al chilo rispetto a una trota bianca, sempre di tipo iridea. Ma mi faccio capire, la trota sorbonata, lei prima diceva che aveva un'alimentazione particolare, cioè la stessa trota che però mangia delle cose diverse? Esatto. Quindi... Praticamente la trota salmonata non è una sottospecie della trota iridea, ma è praticamente la stessa trota bianca iridea, che naturalmente è bianca, solamente che viene fornito questi carotenoidi che è a base di astaxantina, mi sembra, una molecola appunto che conferisce questa colorazione rosata come tipica quella dei salmoni del Nord America. Ho capito, questa è un'informazione che non conoscevamo. Dove si possono trovare questi prodotti? Nel Veneto, per esempio, c'è qualche dei prodotti della Val del Chiampo? I nostri prodotti si possono trovare principalmente nella nostra valle e comunque noi, specialmente l'azienda mia e di mio padre, forniamo tutte le pesche sportive di Treviso, zona di Padova e anche nella zona della Lombardia. Terremo conto di tutti questi consigli e di queste informazioni e la ringraziamo. Ringrazio a voi. Grazie a Enrico Benetti, passiamo adesso ad alcune brevi notizie. Il Veneto è pronto a emanare già in autunno i nuovi bandi del piano di sviluppo regionale 2014-2020, da poco approvato dall'Unione Europea, per una somma complessiva di 1 miliardo e 184 milioni di euro da distribuire nei prossimi 5 anni. I fondi verranno indirizzati in primis alle giovani start-up agricole, alla competitività delle imprese, alla sostenibilità ambientale e agli investimenti innovativi. 80 milioni di euro saranno destinati ai giovani con l'obiettivo di avviare nel Veneto almeno altre 2.000 aziende under 40. Un focus particolare riguarderà invece la montagna, alla quale è destinato oltre il 35% delle risorse per circa 417 milioni di euro. Oltre il 10% delle risorse, infine, viene destinato alla competitività delle filiere agroalimentari e il 33,5% ad obiettivi agroclimatico-ambientali. Il Delta del Po entra nella lista delle riserve di biosfera dell'UNESCO. Il Delta del principale fiume italiano è infatti uno dei siti naturalistici che il Consiglio di Coordinamento Internazionale del programma MAB, Man and Biosphere dell'UNESCO, ha iscritto nella lista delle riserve di biosfera considerate uniche al mondo. Infine, l'annata viticola 2015, pur con alcuni andamenti climatici fuori norma, come per esempio gli sbalzi termici di aprile-maggio e l'ondata di calore registrata nella prima parte di giugno, per il momento sta progredendo bene, accompagnando con regolarità lo sviluppo della pianta. È questa, in sostanza, la fotografia del vigneto veneto scattata lo scorso 17 giugno dagli esperti regionali in occasione del primo incontro del Trittico Vinicolo 2015, promosso da Veneto Agricoltura, Regione Veneto, CIRVE dell'Università di Padova e Consiglio per le Ricerche in Agricoltura. Fermo restando le cose, le prime stime ipotizzano un aumento produttivo generalizzato rispetto al 2014, annata che è stata comunque parecchio scarsa. Più in dettaglio si prevede un incremento delle rese in uva del 4-6% per Pinot Grigio, Chardonnay, Merlot, Corvina e Rondinella, più contenuti invece gli incrementi produttivi per Glera, il vigneto del Prosecco e la Garganega. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluredoveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.